Visegrad, Lega Anseatica, asse franco-tedesco, nord e sud. Ma quante Europe ci sono? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The advantage of the corona bonds, it would be a joint and several issuance of bonds. L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia. Solidarity has to be demonstrated. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati, buon venerdì, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con me, come ogni giorno, ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi Danilo Di Trani in assistenza e in console c'è Peter Bescapè. 349-238-6666 per commentare e porre domande via SMS ma anche via WhatsApp, Twitter, Nessunluogo24, ovvero il mio account che è Giampaz, infine Facebook, trovate anche la diretta video dalla pagina di Radio 24, ovvero dalla pagina di Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Commentare che cosa? Beh, dopo l'Eurogruppo di ieri, dopo quella impulso che arriva da Bruxelles con un accordo, qualcuno lo chiama semiaccordo, qualcuno si dice contento, altri scontenti, c'è in effetti un fondo di vaghezza su quello che è stato raggiunto ieri. Proveremo a ragionare su quante sono le anime europee e sono già certo che i vostri commenti al 349-238-6666 si divideranno fra euroscettici e invece chi è convinto che la crisi della pandemia possa essere una formidabile occasione per una rinascita europea, quasi una fenice che risorge dalle proprie ceneri. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. La prima cosa da fare però è andare a sfogliare i grandi dossier internazionali. Enrico vince lo sprint dei 10 secondi più o meno per scrivere il primo WhatsApp, che è assolutamente perentorio, ve lo anticipo, mi sembra anche un ottimo appiglio per proseguire nella discussione, benché perentorio. La risposta è semplice: non c'è più in Europa, così Enrico. Ma fatemi tornare ai dossier internazionali che stiamo curando io e tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Partiamo da un'immagine, perché quell'immagine e quei video girati con i droni delle fosse comuni di New York hanno creato sgomento in tutta la comunità internazionale, soprattutto perché sono immagini che noi normalmente attribuiamo e vediamo abbinate a grandi crisi emergenziali, a campi profughi, a zone di guerra. Ecco, nella New York, una delle metropoli più attive, più vitali del mondo, in una città che non dorme mai, vedere quelle scene dovute al fatto che molti newyorkesi non possono permettersi nemmeno una liturgia, un funerale, ha destato davvero sgomento. E va a sottolineare ancora una volta, come è stato ribadito da molti analisti, che il coronavirus negli Stati Uniti e in particolare a New York sta acuendo quelle che sono le differenze fra chi percepisce un buon reddito e riesce a garantirsi una buona vita, l'alta borghesia, invece le classi meno abbienti. Fra questi, se andiamo a vedere la mappa dei contagi, soprattutto dei decessi, molti latinos, molti afroamericani. Perché? Perché non possono permettersi il lusso di stare a casa, devono lavorare, spesso fanno i lavori più umili e molto spesso, senza generalizzare, sono quelli che non riescono a garantirsi adeguata protezione contro questa minaccia. Lo Stato di New York risulta avere più casi di coronavirus di qualsiasi paese al mondo e gli allarmi che erano stati lanciati nei giorni scorsi evidentemente erano con un buon fondamento. Secondo l'ultimo aggiornamento, lo sapete, la prestigiosa università Johns Hopkins University, 161.807, l'incremento 10.000 nelle ultime 24 ore, un totale di 7.067 decessi. La foto e l'immagine a cui facevo riferimento in particolare mostrano 40 bare interrate in una fossa comune scavata su Art Island e al largo del Bronx. Da tutto ciò viene da esprimere quasi un paradosso. Si è detto che il coronavirus è una minaccia globale, globalizzante ai noi perché è contagiosa e non guarda in faccia nessuno. Ecco, forse il coronavirus sta mostrando nel caso statunitense quanto poco sia democratico, cioè va a colpire sicuramente di più le fasce più deboli. Vi porto in Chad perché è notizia di ieri, ma si sono aggiunti un po' più dettagli e posso darvi un contesto, un filo, aggiungo un filo, più preciso su quello che è accaduto, e dobbiamo stare alle dichiarazioni dell'esercito ciadiano, che ieri ha dichiarato di aver ucciso oltre 1000 combattenti di Boko Haram, lo sapete, il gruppo armato estremista islamista che agisce nel nord-est della Nigeria ormai da decenni e da più di 10 anni, e che ormai aveva infiltrato il Camerun, il Chad, eccetera. Ecco, proprio nella regione attorno al lago Chad l'esercito avrebbe condotto questa massiccia operazione, secondo quanto riferito dai generali all'agenzia di stampa AFP, Agence France Presse, che dove hanno aggiunto 52 soldati ciadiani avrebbero perso la vita in queste operazioni. Che cosa ci racconta questa notizia, al di là della stretta cronaca? Che il mondo continua a girare e noi, e quella zona, non soltanto Sahel, ma anche zona del Chad e nord-est della Nigeria, continua a essere un punto nevralgico per quelle tante formazioni jihadiste, in particolare Boko Haram, che ricordo ha due fazioni, una affiliata all'ISIS con un'impronta ideologica anche molto forte, e poi l'altra è rimasta affiliata a Boubacar Chekau, quel leader, ricorderete, che è stato dato morto per decine di volte e poi ogni volta spuntava con un nuovo video. Vedremo, stiamo cercando di capire se davvero l'entità di questo colpo inflitto a Boko Haram, 1000 unità uccise, sia realistico, perché se così fosse potrebbe essere davvero un momento risolutivo, almeno nella zona del lago Chad, per la lotta al terrorismo. Un altro dossier che stiamo seguendo con particolare cura e attenzione, chi ci segue assiduamente lo sa, abbiamo parlato piuttosto di sovente anche di Yemen. In Yemen, dove è in corso una guerra civile e uno scontro tra fazioni con vari paesi della zona del Golfo che si fronteggiano per interposta persona, c'è stata un'epidemia di colera, c'è una guerra civile che va avanti da tantissimo. Ecco, è stato annunciato il primo caso confermato di contagio da coronavirus, siamo nella provincia meridionale della Dramut, che è controllata dal governo, però allo stesso tempo è una delle province più colpite da malnutrizione e dal conflitto stesso. Le varie organizzazioni umanitarie hanno lanciato da tempo l'appello perché si aggiungerebbe un'emergenza alle tante già che occorrono in Yemen, e gli appelli che ha rivolto l'ONU alle varie fazioni nel mondo, ma anche il Papa, in alcuni casi hanno sortito qualche effetto, perché lo sapete che, lo dicevamo ieri, l'Arabia Saudita ha deciso di sospendere unilateralmente le operazioni, ma ahi noi, tocca constatare, spero di non essere stucchevole nel farlo, che il coronavirus non segue le indicazioni dell'ONU, quindi se si fermano i bombardamenti, viva Dio, purtroppo però c'è questa emergenza in più in Yemen. Prontamente Peter Bescapè ci fa intuire che i nostri dossier internazionali che stiamo sfogliando in questi giorni, in queste ore, sono per il momento accantonati, li riprenderemo naturalmente a partire da lunedì. Ieri si è scritta una pagina della recente storia europea, una pagina decisamente dal sapore economico, ma non vogliamo entrare nei dettagli delle decisioni economiche che sono state prese ieri. Come dicevamo nei titoli, vi sono tante Europe, vi sono tante anime che in alcuni casi si sono, come dire, aggregate, sono state convogliate in veri e propri gruppi informali o patti, magari commerciali. E oggi ci stiamo chiedendo che Europa esce dall'Eurogruppo di ieri, ma soprattutto quante anime europee o quante Europe vi sono. Non soltanto dal punto di vista economico e della pandemia, questa crisi ci sta costringendo a ridisegnare tutti gli assetti geopolitici, ma tutti gli altri dossier, l'immigrazione, l'annessione di nuovi paesi, ne abbiamo parlato di Macedonia del Nord e Albania per esempio, la difesa comune, come rapportarsi con l'Ucraina, come rapportarsi con la Russia, altri dossier divisivi, la Brexit per esempio, insomma, verso che Europa stiamo andando. Ieri è stato messo un punto fermo, un altro punto fermo lo mettiamo noi andando a Bruxelles, tra quei corridoi dove, come dire, si sussurra e si vocifera un po' meno, perché è tutto smart working, ma le notizie circolano e come. Jacopo Barigazzi, reporter di Politico, buongiorno Jacopo e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, Una prima domanda che può sembrare, come dire, di colore, ma in realtà poi diventa sostanziale. Come funzionano i corridoi di Bruxelles senza i corridoi? Perché sostanzialmente ci si vede meno, si fa più smart working, più Skype call, eccetera, eccetera. Jacopo. Ma infatti c'è un effetto che ha avuto questa crisi, che ha spostato una parte del processo decisionale verso le capitali. Adesso molti esiti delle diplomatici dicono che molti esiti di queste delle videoconference, per esempio, che organizza la Commissione, vanno prima alle capitali che a loro. E fra l'altro le videoconference hanno anche, pongono anche dei problemi di sicurezza, perché ovviamente queste reti non c'è una intranet europea. Quindi l'ambasciatore tedesco, per esempio, in una lettera per settimana proprio ha evidenziato questo problema, e poi non sai neanche chi ci sia veramente dall'altra parte nella stanza. Vedi una persona, ma magari ci sono anche delle persone che non vedi. Certo. Quindi insomma sta impattando tutto il processo diplomatico. Sì. La voce che ascoltate è quella di Jacopo Barigazzi, redazione di Politico, forse uno dei più autorevoli osservatori su tutto ciò che avviene a Bruxelles, e in questo momento ci sta spiegando Jacopo avviene in modalità smart working. La politica europea viene decisa con modalità decisamente diverse, che sicuramente ha un impatto anche sui processi decisionali. C'è più formalismo, evidentemente, magari ci sono meno sussurri, battute, il caffè preso insieme. È un aspetto della politica che non va assolutamente trascurato. La politica ha un fattore umano che in questo caso viene assolutamente compresso dalla crisi che stiamo vivendo. Oggi, Jacopo Barigazzi, non entreremo tanto nel dettaglio di quello che è stato deciso. Avete sentito la voce di Beda Romano dal GR, c'è già qualche ascoltatore che punta il dito sulla Merkel, sull'Olanda, tra poco darò voce anche a voi ascoltatori, ma cerchiamo di capire come funzionano i vari gruppi all'interno dell'Europa. Potremmo ribattezzarla disunione europea, da Visegrad, da nord e sud, asse franco-tedesco, eccetera. Abbiamo, Jacopo, provato a mappare quelli che sono questi gruppi, alcuni formalizzati, altri informali, che sostanzialmente sembrano aver sostituito l'Unione Europea. L'ascoltiamo insieme. Alleanze strutturate, convergenze momentanee su un certo tema, sovrapposizioni tra stati. Come capitale europea, Bruxelles è una centrale politica molto più movimentata di quanto possa apparire. Nei corridoi di Bruxelles si giocano ogni giorno partite e negoziazioni continue, ma il coronavirus sta facendo emergere ancora di più le differenze, al punto che molti osservatori individuano ormai contrapposizioni tra blocchi di stati. Un blocco che sta emergendo molto in queste settimane è la cosiddetta Hansa, o Nuova Lega Anseatica. Si tratta di un gruppo informale nato 2 anni fa che riunisce Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania, insieme ad una nazione che potrebbe sembrare fuori contesto come l'Irlanda. I rappresentanti del Hansa cenano tutte le settimane a Bruxelles per stabilire politiche comuni e si stanno sempre più profilando come i falchi della politica economica. Il loro svantaggio? A fronte di PIL elevati, contano solo il 10% della popolazione europea e non pesano abbastanza sui voti a maggioranza qualificata. Il secondo fronte è quello del cosiddetto Club Med: Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, con l'aggiunta di Malta e Cipro. Il gruppo informale è stato stabilito nel 2013. Conta 3 pesi massimi politici e anche militari come Italia, Francia e Spagna, e alla fine di marzo ha pubblicato una lettera nella quale si chiede uno strumento di debito comune. Ma non si tratta solo di una contrapposizione nord-sud, e la realtà dei blocchi è molto più sfumata. C'è il blocco di Visegrad, paesi dell'est Europa che stanno attirando anche l'Austria e condividono politiche anti-immigrati, ma poi ottengono robusti finanziamenti dall'Unione Europea. E c'è anche il mai dimenticato asse franco-tedesco, che nonostante l'appannamento degli ultimi tempi, sembra comunque avere smussato i contrasti tra l'Eurogruppo degli ultimi giorni. L'Unione Europea sembra ancora una volta risucchiata in un andamento a più velocità. Intanto, agli invisibili sherpa di Bruxelles non resta che continuare a negoziare. A negoziare, sì, per trovare nuove alleanze. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo quell'Europa più informale, quelle varie alleanze, dicevo, che molto spesso tatticamente su diversi dossier vengono sciolte oppure vengono contratte, siglate. Ecco, forse nell'Unione Europea vi sono delle anime che vanno raccontate e illuminate per capire anche quello che è accaduto ieri. Jacopo Barigazzi, secondo te quant'è il peso specifico di questi nuovi gruppi, nuovi relativamente evidentemente, all'interno dell'Unione Europea? Sono un'opportunità, una normale dinamica democratica o minano l'essenza stessa dell'Unione Europea, secondo te? Ma anzitutto sono dei blocchi, così per modo un po' di dire, nel senso che fra di loro per esempio non sono omogenei politicamente. Nella discussione in questi giorni che abbiamo visto anche dall'Eurogruppo, l'Olanda aveva una posizione più dura rispetto a paesi della Lega Anseatica come la Finlandia. L'Olanda ha un governo liberale, la Finlandia è un governo socialista. Per cui sono blocchi, ma appunto ci sono delle sfumature, delle differenze fra di loro. Poi il ruolo maggiore della Lega Anseatica se ne parla di più in questi ultimi tempi, anche perché è dovuta anche all'uscita dell'Inghilterra, che era il paese più grosso del blocco del nord. Anche a livello del sud vale la stessa cosa, cioè hai un Mitsotakis in Grecia, è un leader del PPE, quindi dei conservatori, e quindi non ha esattamente le stesse linee che ha un Sanchez in Spagna o un Costa in Portogallo. E poi c'è anche un altro punto per cui non sono così tanto unite, questo vale anche per i Visegrad. Orban e l'Ungheria non ha la stessa linea sulla migrazione della Slovacchia, che per esempio sul meccanismo di redistribuzione dei migranti prese qualche migrante, a differenza dell'Ungheria che si chiude definitivamente. E poi c'è un altro punto che se vuoi sovrasta tutti questi, cioè il grande cambiamento che c'è stato dopo le ultime elezioni europee dell'anno scorso è che i partiti si sono molto regionalizzati, per cui il PPE, il blocco di centrodestra, adesso è principalmente un blocco centro-est europeo, perché in Italia Forza Italia è al 6%, il blocco di PPE è veramente diminuito, sparito. In Francia è la stessa identica cosa, in Spagna ha perso moltissimo peso, e non è un caso che i mediatori del PPE a giugno, al Consiglio Europeo di giugno, per le posizioni, per quando si doveva nominare le posizioni chiave delle istituzioni europee, i due mediatori fossero il primo ministro della Croazia, quindi Andrej Plenković, e il primo ministro della Lettonia, Karinis. Fino a qualche anno fa uno dei due sarebbe stato, almeno uno dei due sarebbe stato un francese o un tedesco o uno spagnolo o un italiano. I socialisti sono forti invece al nord, Scandinavia, e poi sono forti invece al sud, appunto Spagna e Portogallo. I liberali invece sono forti al centro, quindi, qui nel Benelux e in Francia. Allora, Jacopo Barigazzi, stai aggiungendo complessità a quella che è un'Europa che si muove molto spesso a livello scomposto sui diversi dossier, ma allo stesso tempo in maniera trasversale. Dalle tue parole emerge un punto di vista che sostanzialmente dà quasi maggiore importanza e peso politico ai partiti che a questi gruppi che in realtà sono balzati all'onore delle cronache per tanti dossier. E tra pochissimo li fotograferemo ancora meglio, questi partiti. Intanto ringrazio Jacopo Barigazzi per questa prima fotografia che arriva da Bruxelles. Jacopo, reporter di Politico, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, 349-238-6666, prima di andare alla fotografia dei partiti europei. Olanda e Austria sono il braccio destro e il braccio sinistro della Germania. La Germania non si espone e fa dire a Olanda e Germania quello che pensa e vuole imporre. Così un ascoltatore, qualcun altro che entra e va a toccare il tasto della nuova annessione. Inutile far entrare nuovi paesi finché gli attuali membri non faranno il grande passo da unione a federazione. Questo passo non si farà, continua l'ascoltatore, finché si continua a discutere delle crisi del momento senza pensare a un piano comune per il futuro. Questa non è l'unione che avevano in mente i fondatori, questa non è l'unione che voglio. Un appello accorato che mi sento di condividere soprattutto su quella che è la parte di lungimiranza della politica. La politica europea purtroppo ci ha abituati molto spesso a visioni di corto respiro, lo abbiamo visto sul dossier migratorio, lo abbiamo visto sulla politica estera comune, ma insomma non voglio mettere il dito nella piaga. 349-238-6666, l'ultimo messaggio appena arrivato da Walter, l'accrocchio europeo sul Covid-19. Purtroppo in questo pseudo accordo salva burocrati di Bruxelles, il diavolo sta proprio nei dettagli, impietoso al vetriolo, così Walter. Allora, vi dicevo, fotografare i partiti, che è l'altro soggetto totalmente trasversale, che però dalle ultime elezioni promette di essere un attore di peso fortissimo. Li abbiamo mappati, sentite. Con 187 seggi, il Partito Popolare Europeo, il PPE, è la principale forza del Parlamento Europeo. Il suo leader più noto è la cancelliera tedesca Angela Merkel, anche se il suo partito, la CDU, ha registrato un calo alle ultime elezioni europee. Esponenti del PPE sono al governo in molti paesi dell'Europa centro-orientale, come il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il primo ministro sloveno Janez Janša, il primo ministro croato Andrej Plenković, il bulgaro Boyko Borisov e il greco Kyriakos Mitsotakis, mentre Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, è stato sospeso dal PPE. Esponenti del Partito Socialista Europeo sono al governo in 5 paesi dell'Unione, facilmente divisibili in 2 macro blocchi. A sud, il blocco iberico-mediterraneo con Pedro Sánchez alla guida della Spagna, Antonio Costa in Portogallo e Robert Abela, primo ministro di Malta. Il secondo blocco socialista europeo è collocato nell'area baltico-scandinava, dove al governo ci sono giovani leader come la finlandese Sanna Marin, la danese Mitte Fredriksen e Stefan Löfven alla guida della Svezia. L'alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa, ALDE, domina il Benelux con Sophie Wilmès, prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro in Belgio. Mark Rutte, saldamente a capo dei Paesi Bassi dal 2010, e Xavier Bettel, primo ministro del Lussemburgo dal 2013. I liberali sono al governo anche in Repubblica Ceca con Andrej Babiš, che guida il paese dal 2011, e in Estonia. Questa è la seconda mappa che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Abbiamo iniziato il nostro viaggio da Bruxelles e andiamo adesso a Roma. Lo facciamo con Carlo Corazza, che è il capo dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Dottor Corazza, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille. Grazie a lei per essere con noi. Dottor Corazza, la prima domanda: l'Eurogruppo di ieri, diciamo ciò che è emerso, vi sono delle vaghezze che ancora verranno consolidate, c'è questo fondo, c'è già qualcuno degli ascoltatori 349-238-6666 che sottolinea i Corona Bond. Allora, si è vista più un'Europa o più tante Europe? Ha visto più uno spirito unitario o ha visto le annose divisioni che sono emerse, i famosi veti dell'Olanda, eccetera? Si è visto esasperato quello che si vede molto spesso ai consigli dei ministri, degli scontri di posizione, difesa di interessi nazionali, però alla fine la capacità di trovare una sintesi, che probabilmente non è la migliore possibile, ma è sicuramente un passo avanti. Ricordiamoci che la vera decisione poi la prenderanno il 23 aprile i leader europei, e lì io mi aspetto che ci sarà anche un recovery fund sul tavolo, con la possibilità di mettere i titoli europei che saranno anche acquistabili dalla BCE. Quindi quello che abbiamo visto ieri è la prima parte di una partita ancora lunga. Sì. In questa puntata, dottor Corazza, stiamo provando a analizzare quelle che sono le diverse anime dell'Unione Europea, i gruppi più o meno formalizzati o informali, i partiti europei, quanto queste dinamiche stiano sovrastando in qualche modo l'Unione Europea, e soprattutto sto chiedendo ai miei ospiti e anche agli ascoltatori qual è l'Europa che uscirà dalla crisi di questa pandemia. La prego di stare con noi in linea, un minutino di pausa e poi torniamo a una seconda domanda per lei, che forse è la domanda. Nessun luogo è lontano. Il rischio c'è. Se noi non approfitteremo per rilanciare il progetto europeo, il rischio che lei intravede c'è realmente. È per questo che io non permetterò che questo rischio venga affrontato, lo voglio scacciare via. Così Giuseppe Conte sul rischio di disgregazione dell'Unione Europea, sottolineando quanto la pandemia sia una sfida, ma possa anche divenire un'opportunità. Carlo Corazza, capo dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, giro a lei la domanda e tra poco tornerò agli ascoltatori al 349-238-6666. Anche la pandemia, che è un banco di prova mondiale, non riesce a limare alcune spigolature. Come se ne esce un'Unione Europea rinnovata, che risorge in qualche modo, è l'auspicio di tanti? Ma come stanno dicendo molti, siamo di fronte a una prova storica, nel senso che o riusciamo a trovare una soluzione comune che mantenga il mercato interno, che mantenga condizioni di level playing field tra tutte le imprese, quindi con un fondo comune che presti alle imprese agli stessi tassi, alle stesse condizioni, senza avvantaggiare le imprese tedesche rispetto a quelle italiane o francesi, oppure sarà molto difficile tenere insieme quello che abbiamo costruito negli ultimi 70 anni. Quindi insomma, è vero, è una prova molto difficile. Io però sono ottimista, penso che nessun paese europeo, tantomeno la Germania o l'Olanda, ha interesse a vedere spaccare il mercato interno. Non ci dimentichiamo che l'Olanda è uno dei paesi che più beneficia del mercato interno, grazie ai suoi porti, alla logistica, certo, al dumping fiscale, via dicendo. Non parliamo della Germania. Quindi secondo me alla fine il problema è che in tutti questi paesi si vota. Lei ha fatto bene prima a concentrarsi sui partiti politici. Cioè i populisti, i nazionalisti, gli euroscettici ci sono in tutti i paesi. Quelli che pensano che le soluzioni europee sono sbagliate ci sono anche in Germania e Olanda. Quindi è molto una dinamica tra partiti che tra stati. Sì. Ricordiamoci che tanti anni fa alcuni partiti dicevano non diamo i soldi al sud, però sono dinamiche che si creano in politica. Sì. Ecco, una delle cose più paradossali, se vuole eclatanti, a mia modestissima opinione, Carlo Corazza, lo ricordo che è il capo dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, è questa estrema erraticità, questa essere un divaghi su dossier così diversi, no? Quasi non vi fosse un filo comune da seguire, anche su dossier pesanti, importanti, dalla difesa all'immigrazione, ai comportamenti della Russia alle porte d'Europa. Lei giustamente sottolineava quello che è la cadenza elettorale, si vota spesso in Europa ed evidentemente guardarsi l'ombelico è importante anche per i paesi aderenti all'Unione Europea. Lascio al suo lavoro però chiedendole un'ultima prova più da analisi politica, visto che lei peraltro in passato ha lavorato anche per i negoziati per l'allargamento al paese europeo. Alcuni ascoltatori sostengono, così come altri analisti, attenzione perché allargare a parlo del caso recente, Macedonia del Nord e Albania, in un momento in cui l'Unione Europea già litiga tra pesi massimi, forse non è una buona idea. Lei cosa ne pensa? È meglio un'Europa così allargata ma frastagliata, oppure meglio serrare le fila e poi, una volta serrate le fila, aprirsi? Ma io penso che dobbiamo lavorare in parallelo, sicuramente serve maggiore integrazione, questa crisi lo mette, non possiamo rimanere in mezzo al guado, dobbiamo andare avanti, abbiamo bisogno di una banca centrale, della Federal Reserve, abbiamo bisogno di più integrazione economica, però sarebbe un errore lasciare alle nostre porte un'area di instabilità potenziale come quella dei Balcani, sì. Sono favorevole anche all'avviarsi al Montenegro, all'Albania e agli altri paesi che rispettano le condizioni europee. Sì, grazie mille. Carlo Corazza, lo ricordo, è a capo dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. 349-238-6666. Non allargare però significa lasciarli a russi e cinesi, così un ascoltatore. Aggiungerei la Turchia ha recentemente mandato aiuti, mascherine eccetera, anche in Serbia per esempio. Ricordiamoci anche della malizia e della spregiudicatezza di Erdogan alle porte di Europa. Qualcun altro: io spero sinceramente che dopo la crisi questa Europa non esista più, non è Europa degli uomini, non è Europa dei principi. Non è un'Europa etica, lo sta dimostrando in tutti i modi, è un'Europa, continua l'ascoltatore, che si occupa di finanza, che manca dei valori basilari del convivere tra uomini, manca di empatia, è un'Europa aliena, un'Europa che non ci interessa. In qualche modo questo ascoltatore, così come altri ascoltatori, in qualche modo è come se auspicassero una nuova seduzione da parte dell'Unione Europea, un nuovo appeal, è come se questo concetto, quei principi in qualche modo fossero stati logorati dalle recenti mosse della stessa Unione Europea. Vediamo che cosa ne pensa Arturo Varvelli, che dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno e ben ritrovata, Nessun Luogo è Lontano. Buon pomeriggio a voi. Allora, Partiamo da quest'ultima provocazione. L'Unione Europea forse ha un problema di immagine, di disaffezione. È come se non avesse più appeal, come se quei valori fondanti fossero stanchi e logori, e una parte degli ascoltatori al 349-238-6666 addirittura si augura che questa crisi sia un volta pagina, nel senso che quell'Unione Europea non esista più. Come si può recuperare seduzione da parte delle istituzioni europee? Ma innanzitutto sono assolutamente d'accordo che sì, manca la capacità di farsi apprezzare e di farsi amare. Se pensiamo a quanto poco hanno fatto onestamente Russia e Cina e quanto sono finite sulle pagine dei primi giornali e hanno avuto ringraziamenti pubblici da ministri, ma non solo, cioè poi i ministri alla fine rispecchiano il proprio elettorato, sì. Quindi non c'è un sentimento diffuso. Ma è anche un po' colpa nostra, Arturo, abbiamo stressato troppo queste roboanti dimostrazioni di affetto da parte dei paesi stranieri. No, ma indubbiamente sì, ma è come dire, lo spirito dei tempi. Io penso che sia lo spirito dei tempi perché l'Europa è un prodotto di un periodo storico e un periodo storico che è quello, diciamo, dal secondo dopoguerra fino a una decina di anni fa, nel quale multilateralismo, cooperazione internazionale, interdipendenza economica, eccetera, favorivano un processo di integrazione e favorivano un processo di integrazione europea. È un prodotto di un periodo storico l'Europa, sì. E è funzionata tantissimo in questo periodo e i passi avanti sono stati notevoli, non bisogna dimenticarlo. Sì. Io penso che oggi, proprio non ho un approccio ideologico per l'Europa, ho un approccio realistico. Comunque nessuno ti dà 100 miliardi di euro per il SURE, 200 miliardi di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese, 240 miliardi attraverso il MES, che potremmo attivare o meno, sì, per le spese sanitarie, 37 altri miliardi di fonti di coesione, altre possibilità che potranno arrivare da qua in fondo. Non sì. mi pare che la Russia, né la Cina, neanche gli Stati Uniti, onestamente, ci possano fornire tutto ciò. Sì. Poi è un altro discorso se questo sarà sufficiente, non è sufficiente, è stata poco empatica, indubbiamente è stata poco empatica, ma perché l'Europa è un prodotto di diversi nazionalismi, quindi sì. ogni come dicevamo anche in precedenza, sia con Jacopo Barigazzi che con Corazza, sì. Sostanzialmente ogni governante deve rispondere al proprio elettorato, certo. Quindi certamente ci sarà un elettorato olandese che forse è poco empatico nei nostri confronti, o forse lo è empatico ma dice certo i soldi possono essere prestati dall'Unione Europea all'Italia, ma a certe condizioni, non ci piace che non lo so, venga nazionalizzata l'Italia all'interno del pacchetto, non ci piace che questi soldi vadano a coprire dei buchi o una scarsa crescita o mancate riforme del passato. Quindi, come dire, bisogna anche mettersi un po' nei panni degli altri per riuscire in qualche maniera anche a essere bravi quando si va a trattare. Mi pare che su questo noi siamo stati un po' carenti, possiamo fare delle critiche a questo governo. Ci siamo un po' impuntati con la storia del coronavirus, del corona bond. No, ne abbiamo fatto un po' una bandiera da sventolare al di là delle possibilità reali di ottenerle. Quindi quando poi si ritorna dalla propria opinione pubblica raccontando che siamo partiti per il corona bond, invece abbiamo preso il MES, seppure con tutta una serie di modifiche molto favorevoli, beh, allora ci si scontra un po' con dell'opinione pubblica che era stata mobilitata a una battaglia che poi non si è vinta. Sì, Arturo Varvelli in qualche modo sta già in parte rispondendo a una critica di un ascoltatore, Massimo da Milano. Mi dispiace di aver letto solo adesso il messaggio perché Corazza non è più in onda, avrebbe potuto rispondere egli stesso. La critica di Massimo è piuttosto feroce, dice addirittura: non si vergogna il suo ospite Corazza nel dire che il problema è che si vota, è la democrazia il problema, si chiede ironico Massimo. No, assolutamente, quello che voleva dire il dottor Corazza era che a volte alcune dinamiche strettamente europee rispondono a logiche nazionaliste molto locali, quindi per monetizzare un voto da qua a 6 mesi, a un anno, si preferisce magari cavalcare un'ondata emotiva senza puntare al lungo periodo, alla lungimiranza europea, ma invece si va a rispondere a un elettorato più magari più istintivo, che vuole un traguardo immediato a 6 mesi, che vuole sentirsi dire certe frasi o certe parole. Lungi da me battezzare che sia sinistra o destra, assolutamente. 349-238-6666 per i vostri commenti. e le vostre osservazioni. Qualcuno chiede: ci date le percentuali dei radioascoltatori contrari e favorevoli anche grosso modo? Così Lidia, che augura buona Pasqua, e ovviamente non mi esimo dal contraccambiare gli auguri da parte di tutta la squadra. Guardi Lidia, scorrendo i tantissimi messaggi WhatsApp che stanno arrivando, mi sento francamente di dividermi. Non voglio essere, come dire, cerchio bottista, ma un 50 e 50, nel senso che chi è, come dire, più europeista, mi sembra che il sentimento sia: buona occasione, ma andiamo avanti, si può fare di più, usiamo la pandemia come banco di prova e trampolino di lancio per una nuova Europa. C'è invece un'altra e altrettanto corposa parte di voi che assolutamente punta il dito, è assolutamente frustrato e anzi non esprime sentimenti empatici, a proposito di empatia, verso quello che sta facendo l'Unione Europea. Fatemi però tornare da Arturo Varvelli, che dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. In questa puntata in nessun luogo, Arturo, come forse hai sentito, stiamo cercando di raccontare quegli attori più o meno formali o informali che su tanti dossier si dividono, si mettono assieme, fanno alleanze di convenienza. Al di là di quello che è l'aspetto prettamente economico e la pandemia, vi sono dei dossier molto importanti: immigrazione, rapporti con la Turchia, apertura a nuovi membri, il comportamento della Russia, eccetera. E non è bizzarro, non è strano che questi attori informali, sia i partiti europei che Visegrad, Danza, eccetera, eccetera, contino più dell'Unione Europea? Non è un fattore di disgregazione, secondo te? Sì, è un fattore di disgregazione. Penso che ci sia una oscillazione maggiore delle posizioni e della definizione degli interessi nazionali di tutti i paesi europei rispetto al passato. Cioè, come dire, forse 20 anni fa potevano cambiare maggiormente le maggioranze all'interno di questi governi, di questi paesi, ma c'era un filo conduttore di ogni singolo paese, di ogni politica estera. Invece ora mi pare che indubbiamente vi sia un'oscillazione maggiore, che è determinata anche stavolta, non voglio fare l'accademico pesante, però secondo me dal sistema internazionale, che è un sistema internazionale che è mutato notevolmente negli ultimi 20 anni, che è sostanzialmente più libero di costrizioni, e quindi c'è anche una maggiore difficoltà a capire che cosa sono gli interessi nazionali dei singoli paesi. Sì. C'è una mobilitazione dell'opinione pubblica che è molto diversa rispetto a quella di 20-30 anni fa, cioè, insomma, i social network. C'è stato uno scarto da questo punto di vista. Sì. Quindi è più facile che l'opinione pubblica si infiammi o si coalizzi, diciamo, attorno ad alcune questioni rispetto al passato. Sì. È anche più facile mobilitarla ed è anche più volubile l'opinione pubblica. Quindi tutti questi fattori favoriscono il fatto che alcuni paesi cambino molto la posizione a seconda anche della maggioranza che viene. E l'Italia è uno di questi, è un esempio molto classico, direi. Sì. La voce che state ascoltando è quella di Arturo Varvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Tra pochissimo andrò a voi ascoltatori. Prima facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le strade e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Dopo la giornata di ieri, l'Eurogruppo, che alcuni paesi hanno salutato come una grande vittoria, qualche giornale olandese per esempio, qualcun altro come un pareggio, quello che è certo è che gli aiuti messi in campo dall'Unione Europea sono ancora una volta il formidabile specchio, la cartina tornasole di quella che è la politica, a volte la disunione dell'Unione Europea, perdonatemi l'ossimoro, ma è precisamente voluto. In questa stessa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo provato a analizzare quelli che sono gli attori che paradossalmente risultano molto più pesanti dell'Unione Europea stessa e delle istituzioni, in primo luogo quei gruppi come Visegrad o ANSA, per esempio, che sono gruppi informali ma che sulla base di specifici dossier fanno alleanze. L'asse franco-tedesco, per esempio, il Club Med, che ultimamente sembra essere tornato in voga dialoga con questo strano filo diretto tra Roma e Parigi che non si vedeva da un po'. Insomma, lo stato di salute dell'Unione Europea è lungi da me qualsiasi irriverenza nei confronti della situazione. La pandemia, secondo molti, può essere un'occasione per rinascere come Unione Europea, secondo molti altri sarà il funerale a tutti gli effetti. Un ascoltatore scrive, per esempio: se ci fossimo trovati fuori dal contesto europeo con una nostra valuta, oltre al coronavirus, con tutti i problemi che sappiamo, saremmo stati oggetto di una tempesta valutaria tale che l'Italia avrebbe smesso di esistere. Così Francesco Pisa. Anche una dicitura in italiano, l'ufficio di Codesto Varvelli, così per dire, è un think tank, gentile ascoltatore, internazionale, che si chiama European Council for Foreign Relations, e quindi diamo la dicitura. Qualcuno mi bacchetta peraltro dandomi del bugiardo, perché davo dei sondaggi assolutamente non veri, perché, e questo ascoltatore dava altre cifre di euroscetticismo, gentile ascoltatore, davo un sondaggio a braccio, o anzi ad occhio dovrei dire, perché stavo scorrendo i tanti messaggi su WhatsApp senza alcuna pretesa statistica, quindi non mi dica che sono falso o bugiardo, semplicemente in tutta trasparenza sto cercando di valutare il peso specifico di chi è scettico e di chi invece continua a essere innamorato dei valori europei e pensa che questa Europa possa rinascere. Fatemi tornare però da Arturo Varvelli. Arturo, proviamo a passare in rassegna, ma velocissimamente, quelle che sono un po' delle zone d'ombra ultimamente, dossier libico che stai seguendo con particolare attenzione da ormai da anni evidentemente, dossier migratorio, questa Turchia che fa la voce grossa proprio alle spalle, alle porte, perdonatemi, alle porte di Europa. Ecco, allora, quello che è accaduto ieri all'Eurogruppo potrebbe essere un primo banco di prova per riavvicinare l'Unione Europea anche su questi altri dossier. Noi come nessun luogo non seguiamo le vicende economiche, però possiamo prendere quello che è accaduto ieri come laboratorio, come palestra in cui l'Europa si è scaldata i muscoli. Se applicassimo il successo o insuccesso, secondo alcuni, di quello che è accaduto ieri e lo applicassimo agli altri grandi dossier, cosa ne potrebbe scaturire, secondo te, Arturo? Ma sarebbe un ottimo esercizio. In realtà in parte questo esercizio è stato fatto nei mesi passati, perché se guardiamo al caso libico, alla crisi libica, abbiamo visto che la Germania si è sostanzialmente assunta negli ultimi 6 mesi un ruolo di leadership che prima non aveva. Sì. E ha cercato in buona parte di mediare tra due posizioni che sono state lungamente antagoniste, che probabilmente ancora in parte lo saranno, che erano quella italiana e quella francese. E tutto questo processo ha comunque prodotto il fatto di aver riportato in casa la gestione della crisi libica, in casa europea, sfilandola un po' dalle mani dei turchi e dei russi con la conferenza di Berlino del gennaio scorso. Perdonami Arturo, posso fare un'osservazione su questo aspetto? Ecco, è l'ennesimo caso in cui la Germania fa da traino, cioè rivela e rivendica una leadership su un dossier comune europeo. Sì. C'è questa intraprendenza, per carità, che noi fotografiamo, però ancora una volta manca quella sinergia, no? Quel mettere a fattor comune il tutto. Indubbiamente, è un processo faticoso questo, non bisogna negarcelo. Io penso che la Germania abbia comunque un peso economico, demografico, politico anche, che sostanzialmente la rendono qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre potenze europee. Sì. E è naturale, adesso ancora di più con l'uscita della Gran Bretagna, che la Germania sia il leader di questa Europa. E un po' anche stava nei patti chiari. Quando dopo l'89 la Germania si è riunificata, ma per ottenere questa riunificazione all'interno di un quadro europeo ha dovuto concedere anch'essa parecchie cose, cioè diluire questa potenza all'interno di un quadro europeo. Sì. E la fondazione moderna dell'Europa è basata su questo, sul fatto, come dire, contrappesi, pesi e contrappesi di una Germania riunificata e potente all'interno di un contesto europeo. Quindi assolutamente io penso che la Germania sia destinata a essere sempre più il traino di questa Europa, e fin quando percepirà come conveniente la Germania, l'Europa andrà avanti. Quando la Germania comincerà a pensare che non è più conveniente l'Europa, allora a quel punto realmente l'Europa rischierebbe di sprecarsi. Sì, e in questa puntata di Nessuno Qui Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo lanciato una provocazione: ma se quei gruppi da Visegrad, Hansa, l'asse franco-tedesco, il Club Med cosiddetto, a un certo punto si istituzionalizzassero, diventassero in qualche modo più cristallizzati, più formali, forse si troverebbe un comune assenso su alcuni dossier? Con Arturo Varvelli stiamo provando a passare in rassegna alcuni, su tutti, la crisi libica, che attenzione non è affatto finita. Nei giorni scorsi vi raccontavamo dei bombardamenti di Haftar, che sostanzialmente sta facendo orecchie da mercante agli inviti dell'ONU, sta facendo orecchie da mercante agli inviti dell'OMS, non rispetta l'embargo, non rispetta la pandemia, continua a premere su Tripoli. Poi c'è il caso turco, che per il momento, complice la pandemia, sta abbassando i toni, ma si è avviato su quella diplomazia della mascherina che Cina e Russia hanno già da alcune settimane abbracciato. E l'Europa? L'Europa cosa fa? Beh, Serena scrive al 349-238-6666, dice: io sono assolutamente per rimanere in Unione Europea, da migliorare certo, ma facendolo da dentro. E qua non capisco bene, perché dovremmo capire anche, Arturo, nelle scorse puntate abbiamo ragionato molto spesso anche sui meccanismi sanzionatori. Nel blocco Visegrad c'è qualche paese riottoso, per esempio, che sulla questione migranti, altro dossier caldo per l'Unione Europea, proprio non ne vuole sapere. Ecco, forse sarebbe auspicabile rivedere i meccanismi sanzionatori. Qualche ascoltatore addirittura dice che alcuni paesi europei vanno cacciati dall'Unione, punto e basta, particolarmente perentori. Le sanzioni potrebbero risolvere, secondo te? No, io penso che sia necessario forse tentare di rivedere i meccanismi di decisione. Ci sono troppi meccanismi a unanimità. E questo naturalmente è un grosso vincolo, sì, perché abbiamo visto sostanzialmente forse la Germania sarebbe stata propensa a concedere qualcosa di più, ma a tenere duro, diciamo, tra gli hardliners è stata l'Olanda, sì, nell'ultime tensioni. Su altre occasioni ci sono magari due, tre paesi, anche piccoli, che però hanno oggettivamente degli interessi importanti su alcune questioni e pongono dei veti. L'ingresso del mancato della Turchia in Europa, poi dire se è stato un bene o un male lo lascio a ognuno di noi, però sulla Turchia è evidente che il veto di alcuni paesi nel corso della storia ha fatto sì che la Turchia rimanesse sempre qualcosa di vicino all'Europa, ma qualcosa di altro e di diverso. Quindi sì, ci sono alcuni temi su cui ci saranno sempre, quindi rivedere i meccanismi di decisione, passandoli da unanimità magari a maggioranze qualificate, certo, di qualche tipologia. Questo potrebbe favorire Borrell, che è, diciamo, il responsabile estere, sicurezza, diciamo, estera, esatto, della politica estera, ce l'aveva un po' come obiettivo. Però questa crisi di coronavirus io temo che abbia, come dire, comporterà una nuova fase di introversione dell'Europa, e anche giocare tutte le partite sul campo estero sarà molto difficile. Cioè, pensare che adesso i nostri governanti abbiano testa e sprechino energie per risolvere il capitolo migratorio con la Turchia, per risolvere, certo, la questione libica, è molto difficile. Certo, certo, e su questo non c'è dubbio. Grazie mille, Arturo Varvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Grazie mille per essere stato grazie con noi. Buona giornata e buon lavoro. Un po' di messaggi, alcuni, voi sapete che per politica non leggiamo mai i complimenti, ma vi ringrazio per tutti quelli che scrivono lodando la trasmissione. Ma detto ciò, sarebbe stucchevole. Leggo piuttosto le critiche, anche piuttosto feroci: che disgraziati siete, parte così un'ascoltatrice. Russia è tra i primi, forse unici, che vi ha teso la mano, doveste dire, immagino, voglio dire, un semplice grazie. È impossibile, invece mettete bacilli e bacilli del fango. Rifiutate l'aiuto, allora, che gente non rimangono qua a rischiare la vita, intende gli aiuti russi, e se ne tornano a casa e cavatevela da soli. Ma, gentili ascoltatrici, abbiamo solo detto che hanno abbracciato la diplomazia della mascherina, poi abbiamo anche discusso su quanto fosse opportuno far arrivare dei militari russi invece che la protezione civile russa, ma mi sembra nel solco della normale dialettica e in omaggio alla diplomazia che questo programma abbraccia da sempre. La Germania deve restare nell'euro, scrive un altro ascoltatore, perché se tornasse una moneta nazionale la sua rivalutazione stroncherebbe l'export, vero motore della sua economia. Qua io mi fermo, lo sapete, non è il mio campo. Piuttosto, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo ragionando su quanto questa pandemia possa ridisegnare l'Unione Europea. Abbiamo avuto affreschi più o meno ottimisti da alcuni alcuni dei nostri ospiti. Ribadisco, non ha pretesa di sondaggio, da voi io direi 50-50. Se così non fosse, nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano avrete spazio per sbilanciare questo cercobiottistico sondaggio che ho lanciato. Prima di chiudere rispondo simpaticamente a un ascoltatore che mi dice: come Mattarella evidentemente non posso andare dal barbiere, e mi sta guardando su Facebook, però dovrei sistemarmi i capelli. Ma io ce l'ho un barbiere, gentile ascoltatore, è mio figlio che ha 7 anni ed è bravissimo. Detto ciò, visto che un ascoltatore al 349-238-6666 augura buona Pasqua, ma aggiunge: Peter, una parola, sai qual è? Bravo, mi è piaciuta questa, non male. Che è il preludio ai titoli di coda. Un sacco di auguri di buona Pasqua e ringraziamenti a voi e a tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano. Domani il meglio di alle 10 e ci risentiamo lunedì. Un saluto.